si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessio Maurizi, cari ascoltatori di Si Può Fare, ben ritrovati in diretta sino alle 11, staremo insieme un'occhiata alle pagine dei giornali di oggi e cominciamo tra poco. Per chi non avesse già sentito la rassegna stampa più dettagliata della domenica, oggi condotta da Giulia Crivelli, poi naturalmente le nostre buone notizie, gli approfondimenti, apriremo il numero verde per parlare con voi, i nostri contatti per interagire in tempo reale con noi fin da adesso, ve li ricordo su Twitter, l'account del programma è chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Adesso come sempre iniziamo a caccia di buone notizie. And now the good news. E questa volta siamo a Firenze per una piccola buona notizia che riguarda il mondo dell'abitare, abitare solidale, perché c'è un progetto portato avanti dall'Auser del capoluogo toscano per il quale oltre 100 persone, 100 famiglie hanno ospitato altrettanti inquilini gratuitamente. È uno scambio però di solidarietà, si offre una ospitalità a chi ne ha bisogno, ma in realtà in cambio si ricevono aiuti per quanto riguarda il pagamento delle bollette, o se bisogna risistemare la casa, o se bisogna prendersi cura per esempio di un anziano in casa, tutte cose di cui molte famiglie hanno bisogno. Ebbene, un nuovo modo di condividere l'abitazione che sta avendo un discreto successo, un modo per aiutarsi, per venirsi incontro, che non costa niente a nessuno, quindi una soluzione da verificare, da sperimentare. Questo accade a Firenze per opera dell'Auser. Iniziamo! E va bene, vediamo però di che cosa si occupano i giornali di oggi, che ci sono le code dell'accordo raggiunto venerdì a Bruxelles per quanto riguarda le nuove nomine europee e l'accordo sulla flessibilità del patto di stabilità, ma poi anche altre notizie. Si anticipa quello che accadrà domani in Consiglio dei Ministri, c'è attesa per la riforma della giustizia, poi un'intervista, niente, po' di meno che al Papa da parte del Messaggero. Cominciamo con il Corriere della Sera, la via stretta della flessibilità, dicevamo, i conti dell'Italia per convincere l'Unione Europea ad evitare la manovra aggiuntiva, il Premier ora tocca a noi con le riforme, settimana chiave. Poi per quanto riguarda invece per esempio Yara, quelle sere vicino a casa di Yara, testimoni, piccole bugie, le indagini su Bossetti. Oltre il DNA, non è vero, scrive Fiorella Sarzanini, che Massimo Giuseppe Bossetti, muratore accusato di aver ucciso Yara Gambirasio, trascorreva le sere soltanto con la moglie e i figli e le domeniche con i genitori, come lui ha dichiarato a verbale. Usciva anche da solo, ci sono testimoni pronti a giurare di averlo visto di sera proprio nelle zone dove la ragazzina viveva con la sua famiglia. Piccole bugie che diventano dettagli importanti per l'accusa, perché rappresentano un'incongruenza rispetto alla difesa dell'indagato. Staremo a vedere, sicuramente se lui è innocente e ha raccontato delle balle agli investigatori è una follia, perché chiaramente si inguaia da solo, altrimenti queste piccole bugie, di per sé bisogna dirlo anche a chi scrive questi articoli, non dimostrano proprio nulla, cioè se lui ha passato qualche sera in discoteca non vuol dire che abbia ammazzato una ragazzina. Certo, però ripeto, se uno dice un sacco di balle ai magistrati può darsi che un motivo ci sia, cioè se leggessi un libro di Maigret andrei avanti a capire, perché qualcosa di marcio ci deve essere, però di lì a condannarlo sicuramente ce ne corre. Dicevamo della giustizia. Il piano per la giustizia rischia di slittare, scrive il Corriere della Sera. Per ora ci sono solo le linee guida. Cosa succede? Sorpresa, al Consiglio dei Ministri di domani non c'è alcun provvedimento in materia di giustizia da esaminare. Niente processo civile, né autoriciclaggio o nuove norme antimafia. Tutte cose che erano attese e state annunciate anche da Renzi. Niente prescrizione o falso in bilancio rivisti. Tantomeno modifiche del CSM o la responsabilità dei giudici. Regole più stringenti per le intercettazioni. Nonostante la nota perentorietà di Renzi sui tempi, domani il ministro Orlando si limiterà a denunciare delle linee guida. Uno dei nodi, forse il nodo secondo il Corriere più difficile da sciogliere, e sarebbe il motivo per cui si rimanda la riforma della giustizia, è quello della responsabilità dei magistrati. Il nodo politicamente sensibile, quello sul quale nel Partito Democratico non tutti la pensano allo stesso modo, il nuovo centrodestra dell'ex guardasigilli berlusconiano Alfano vorrà dire la sua: la responsabilità civile dei magistrati per dolo o colpa grave? Perché Orlando, il ministro, per ora ha predisposto un testo che prevede la possibilità del cittadino di chiedere i danni allo Stato e l'obbligo per lo Stato di rivalersi sul giudice fino a metà del loro stipendio. Quindi una responsabilità indiretta delle toghe, al contrario di quanto previsto da un emendamento leghista già approvato alla Camera con i voti nascosti di non pochi deputati della maggioranza, scrive il Corriere. Dunque il nodo resta quello della responsabilità civile dei giudici, sono versioni diverse. Oh, il Corriere però si incarica anche di raccontarci che è tornato a farsi vedere Gianfranco Fini, mea culpa e lodi al Premier. Ora Fini vuole fare il coach dal pala congressi dell'Euro, l'ex leader di AN e di Forza Italia rilancia una destra popolare ed europeista, pochi però gli ex compagni di strada in platea. Poi dice: la politica è come il tifo, non ne esci. Certo, un paragone che di questi tempi non è coi funerali Esposito ancora, insomma, voglio dire, due giorni fa. Paragone sul tifo, quello di Fini, non era al massimo, ma insomma, sono parole così. Poi dice: il sogno di allenare una squadra vincente, non voglio tornare in campo, voglio solo allenare una squadra vincente. Il video con gli sportivi di successo, la Pellegrini, Valentino Rossi. Poi chi c'era in platea? Gente più o meno sconosciuta, Menia, Raisi, Buonfiglio, non c'era Bocchino, poi Granata, che adesso è coi Verdi, Giulia Buongiorno, che è con Passera, Flavia Perina, che è diventata condirettore della DN Kronos. Questo per quanto riguarda Fini. Della giustizia si occupa anche il Messaggero, che in prima pagina riporta il risultato di un sondaggio secondo il quale la responsabilità civile dei giudici la vuole l'80% degli italiani. Sondaggio SVG, e poi il PD che dice: via subito i filtri per il risarcimento. Vediamo. È ammissibile che un comune cittadino, qualora si ritenga vittima di un danno ingiusto, possa chiedere un risarcimento pecuniario direttamente al magistrato e non più allo Stato? La domanda è stata girata a un campione di 1000 soggetti maggiorenni. Per l'81% dei cittadini il magistrato che sbaglia deve essere responsabile della propria azione. Il 64% degli intervistati ritiene indispensabile l'azione diretta contro i magistrati, quindi non più passando attraverso lo Stato, per cui c'è una maggioranza degli italiani che è favorevole su questo. Il Messaggero, dicevamo, intervista il Papa. Ebbene sì, quindi se siete curiosi di sapere qualcosa di più su Papa Francesco, ma anche sulle linee, insomma, del suo pontificato, potete leggere l'intervista di Franca Giansoldati oggi. Inizia così: l'appuntamento è a Santa Marta di pomeriggio, 6 poltroncine verdi di velluto un po' liso, un tavolino di legno, un televisore di quelli antichi col pancione, tutto in ordine perfetto, il marmo tirato a lucido, qualche quadro. Potrebbe essere, scrive, una sala d'aspetto parrocchiale. E invece poi arriva Papa Francesco, sorridente: finalmente io la leggo, ora la conosco. E cominciano a parlare: per chi tifa lei ai mondiali? Ah, non posso dirlo per nessuno, davvero. Ho promesso alla presidente brasiliana Dilma Rousseff di restare neutrale. Poi parlano di Roma. Quali sono i mali della città oggi? Sono quelli delle metropoli come Buenos Aires. Chi aumenta i benefici e chi è sempre più povero? Dice Papa Francesco. Poi, parlando della politica, esiste una gerarchia di valori da rispettare nella gestione della cosa pubblica? Certo, tutelare sempre il bene comune. La vocazione per qualsiasi politico è questo. E a proposito della corruzione, se ne parla tanto perché i mass media insistono troppo sull'argomento o perché effettivamente si tratta di un male endemico e grave? No, purtroppo, dice Papa Francesco, è un male mondiale, ci sono capi di Stato in carcere per questo. Mi sono interrogato molto, sono arrivato alla conclusione che tanti mali crescono soprattutto durante i cambi epocali. Stiamo vivendo non tanto un'epoca di cambiamento, dice il Papa, ma un cambio di epoca, e quindi si tratta di un cambio di cultura. Proprio in questa fase emergono cose del genere. Il cambiamento d'epoca alimenta la decadenza morale non solo in politica ma nella vita finanziaria o sociale. Repubblica invece titola sul semestre italiano di Renzi un piano a 240 miliardi per il semestre europeo a guida italiana, soldi per infrastrutture, energia e innovazione. Speriamo che arrivino veramente. Poi vabbè, ricordiamo anche la fotonotizia con l'abbraccio tra il CT brasiliano Felipe Scolari e Neymar dopo la sudata e quasi compromesso passaggio ai quarti, agli ottavi. Il Brasile ha battuto solo ai rigori il Cile. Le lacrime a un passo dall'abisso, il sogno continua all'ultimo rigore. Repubblica però intervista anche il ministro per lo sviluppo Guidi, che dice: l'articolo 18 è superato. Ahiaiai, se non fossimo in tempi in cui dell'articolo 18 non sembra quasi che non interessi più a nessuno, perché c'è una crisi tale che l'argomento è un po' fuori moda, ci sarebbero reazioni a catena, eccetera. Invece sentite qua, leggo subito questo passaggio, poi ce ne sono altri. Cosa ne pensa del superamento dello Statuto dei lavoratori? Non è la mia materia, dice il ministro Guidi, dunque parlo a titolo personale. Penso che definire lo Statuto un documento datato sia un eufemismo. Non si commette peccato mortale se si pensa a un intervento di manutenzione. Il mondo evolve, c'è bisogno di maggiore flessibilità in uscita e in entrata nel mondo del lavoro, ovviamente con tutte le necessarie garanzie. E fin qua uno se lo poteva aspettare, conoscendo la Guidi. In ogni caso, dice, non ritengo che oggi l'articolo 18 sia una questione strategica per le imprese, come forse lo è stato una decina di anni fa. Quindi nessun attacco all'articolo 18 a parte del ministro Guidi, anche se dice che è superato, ma non c'è bisogno di modificarlo, proprio perché evidentemente si tratta di tutele e di argomenti che non sono di grande attualità. Il ministro Guidi, che poi oltre a ricordare quello che ha fatto il governo per rilanciare lo sviluppo, ha abbassato le tasse sul lavoro e sulle imprese, un pacchetto di provvedimenti per la patrimonializzazione delle aziende eccetera eccetera, parla del piano per il Made in Italy. L'obiettivo è quello di supportare l'internazionalizzazione delle nostre aziende, una cosa che da noi non è mai stata fatta, e quindi è in arrivo, insomma, sta elaborando questo piano per il Made in Italy per sostenere le aziende italiane che poi vanno all'estero e spesso hanno grosse difficoltà, oppure poi arrivano gli investitori stranieri in Italia a comprare le aziende italiane perché sono appetibili ma non hanno una struttura tale da reggere sul mercato internazionale. Due giornali veloci per vedere degli altri titoli. Il Fatto Quotidiano, riforme, immunità sì, falso, in bilancio no. Domani in Consiglio dei Ministri solo una vaghissima discussione sulle linee guida, sebbene il Premier avesse giurato a giugno il pacchetto giustizia. Invece per lo scudo su Palazzo Madama nessun passo indietro. Libero scrive così: ecco le carte delle bluff di Renzi, ci tocca una manovra da 25 miliardi. Di cosa stiamo parlando? Del fatto che, secondo Libero, il Premier canta vittoria sulla flessibilità, ma a Bruxelles ha firmato un documento che inasprisce i termini per il raggiungimento del pareggio di bilancio. Ve lo mostriamo. Ora la stangata d'autunno diventa inevitabile. Previsioni d'autunno per Libero. Il Sole 24 Ore, che titola su Piazza Affari, 6 mesi da record, effetto banche centrali sui listini, ma gli analisti non escludono rallentamenti. Questo per quanto riguarda, diciamo, il riepilogo di questi primi 6 mesi di borsa. Poi c'è l'editoriale di Roberto Napoletano, il direttore, sul semestre italiano, il pilota e il motore. Iniziamo velocemente: il campo di gioco è stretto, gli spazi di manovra ottenuti non sono di poco conto e guai a sottovalutarli, ma vanno riempiti di contenuti. Sono tutti scritti nel patto di stabilità e di crescita. Bisogna curare quella zoppia di cui parlava Carlo Azeglio Ciampi, che ha spinto per troppo tempo l'Europa nel grembo di una miope austerità. Questo è l'inizio dell'editoriale di Roberto Napoletano, dedicato all'inizio del semestre italiano. Tra metà settimana Matteo Renzi parlerà al Parlamento europeo e sarà un momento importante politicamente parlando, tratto con le elezioni fresche alle spalle, i nuovi vertici della Commissione appena eletti. Diventa particolarmente cruciale questo passaggio. 800 24 00 24, ma il numero verde lo apriamo solo dopo il giornale radio. Adesso facciamo una pausa, torniamo tra poco e andremo a curiosare tra le pagine del Domenicale. Tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Ed è il momento, come detto, di ritrovare, a dire la verità, per l'ultima domenica di questa stagione, Armando Massalenti. Ciao Armando. Ciao, buona giornata, buona domenica a tutti. Te l'avevo anticipato, diciamo privatamente, però adesso lo diciamo anche ufficialmente. Ma insomma, questa è l'ultima puntata di Si può fare in questa versione. Poi ci saranno delle repliche durante l'estate, ci sarà una versione serale, quotidiana ad agosto nell'orario della Zanzara. Però insomma, anche per quanto ci riguarda, Armando, poi ci risentiremo, credo più avanti, insomma. Però adesso non mettiamo le mani avanti e parlaci di cosa avete preparato oggi nel domenicale. Intanto è un appuntamento, quello della copertina, che ci accompagnerà appunto per tutta l'estate, perché è il romanzo che pubblichiamo a puntate. È un raffinato romanzo, si intitola Il manoscritto incompleto, l'autore è Kamal Abdullah, ed è un avvincente, raffinato romanzo storico che ha inizio con il ritrovamento, abbastanza è un classico di molti di questi romanzi, di un misterioso manoscritto che mancano alcune parti, e c'è un ricercatore di Baku, dalla capitale dell'Azerbaigian, che appunto è alla ricerca di questo. La scoperta ci catapulta in un'altra epoca, nell'epoca del libro di Dede di Korkut, il poema che l'UNESCO nel 2000 aveva dichiarato l'opera letteraria dell'anno, e appunto si raccontano le storie intorno a questo manoscritto. È una scelta molto raffinata ma molto avvincente. L'autore è una specie di Umberto Eco azerbaigiano, Kamal Abdullah, ed è ha ricoperto anche degli incarichi importanti nel suo paese dal punto di vista della politica culturale. Ecco, devo dire, questo romanzo così raffinato, di cui pubblichiamo la prima puntata, andremo avanti poi fino a settembre con il classico feuilleton, insomma, c'è cioè la cosa che la tradizione che da molti anni segue il domenicale, e fa un po' da contraltare rispetto alle, anzi è una risposta, se vogliamo, alle giuste riserve che Paola Mastrocola, nella sua rubrica Paginette, la rubrica mensile che lei tiene, alle critiche che fa al romanzo che va per la maggiore oggi, cioè dei romanzi che lei dichiara deperibili, cioè dei romanzi troppo legati all'attualità, che si preoccupano un po' troppo di legarsi alla discussione del momento. Ecco, noi abbiamo fatto volutamente una scelta molto molto più raffinata e che sicuramente piacerà ai nostri lettori. C'è un pezzo che consiglio di leggere a tutti oggi, che riguarda invece la scienza, le pagine scientifiche, perché riguarda la scienza dei rigori. Allora, abbiamo calcisticamente visto, parlando? Calcisticamente parlando. Ah, beh, certo, quale momento migliore adesso? Esatto, e infatti. E allora Bruno Pistola aveva parlato sempre di lotteria dei rigori. Sì. Matteo Motterlini, che è un filosofo della scienza, è un grande esperto, tra l'altro, di teoria della razionalità, più o meno limitata, fa un ragionamento molto interessante sulla scorta di alcuni studi recenti che riguardano soprattutto la teoria dei giochi, e allora vuole sfatare l'idea, senza contestare tutto, ma comunque l'idea che esista una scienza anzi è già interessante che qualcuno abbia codificato la scienza del rigore perfetto, no? Cioè del fatto che si debba tirare con una rincorsa di 5-6 passi e con un arco perfetto che deve essere sui 20 gradi, 30 gradi, eccetera eccetera. Ecco, questa formula che lui riporta è stata approvata persino dal grande astrofisico Stephen Hawking, ma questi studi recenti, soprattutto l'autore di Think Like a Freak, questo economista americano Stephen Levitt, mostra che invece, se ci affidiamo alla teoria della razionalità, alla teoria dei giochi, sì, vediamo che la cosa più razionale in assoluto per chi tira un rigore, sai qual è? È tirare in mezzo, tirare al centro. Beh, il famoso cucchiaio alla Totting. Esattamente, esattamente. E quindi è un articolo molto spassoso, ma devo dire anche molto molto rigoroso, che insomma espone gli studi di ben 5 esperti di varia natura, che appunto confluiscono in questi pesi. Ecco, questa è una riflessione, appunto, anche questa estiva. Poi chiaramente sono tante altre cose, sarebbe difficile riassumerle qui. Se vogliamo un aforisma, quindi una battuta breve, se non sorge una nuova lode si perde anche quella vecchia, dice il nostro aforista di oggi. Poi ci sono tante altre cose, abbiamo su Giuseppe Scarafia che ci parla del lato più scandaloso di Simone de Beauvoir, la famosa scrittrice e filosofa, certo, francese, compagna per la vita di Sartre, qui ci sono tutti questi tradimenti, gli amori statici, eccetera. C'è una ripresa di, ecco, una nuova edizione di un attore che poi sarebbe venuto famoso soprattutto negli ultimi anni, Emmanuel Carrer, di cui Adelphi ripubblica La schiena bianca, un romanzo di 20 anni fa. Poi abbiamo una terza pagina dove abbiamo grandi firme d'eccezione, Anish Kureishi che fa una riflessione su i migranti. E dice: i migranti sono come degli esseri che dei protagonisti di una sorta di videogioco o di film dell'orrore per la gente, perché dice che il conformismo diffuso li percepisce come degli alieni o degli zombie, come delle figure orribili che si autoalimentano in continuazione, con cui bisogna appunto fare i conti e che insidiano la normalità delle nostre vite. Ricci, grande drammaturgo che tutti conosciamo, sarà la Milanesiana, noi ne anticipiamo il testo, anticipiamo anche un altro testo molto interessante, il premio Nobel per l'economia Robert Taubman, che è un teorico dei giochi anche lui, ecco, come dicevamo prima dei ragionamenti sui calci di rigore, e avevamo pubblicato qualche settimana fa il suo ragionamento sulla guerra fredda. Qui invece c'è una alla Milanesiana parlerà, e noi ne pubblichiamo un estratto praticamente completo, quasi completo, su che cos'è secondo lui la coscienza, come va studiata la cosa che sembrerebbe più difficile da studiare in assoluto, che è la coscienza. E poi che dire, io torno nella mia filosofia minima sulla questione del Senato. A questo punto sono successe tante cose, però domani inizieranno gli emendamenti per la riforma del Senato e noi torniamo sul nostro vecchio chiodo. Al momento non sembra che ci sia stato... Sì. Non dico ascolto, perché ascolto sicuramente c'è stato, ma che nella concretezza poi ci sia molta attenzione a questo tema, perché il Senato sembra ridursi a un centinaio, no, di rappresentanti, con 5 questo... solo di nomina presidenziale. Esattamente, naturalmente però 5 su 100 valgono di più che rispetto ai 5 precedenti. Questo sì, questo sì. Il numero era molto più elevato, si ragiona un po' su questo, Elena Cattaneo... farà alcuni emendamenti, vi proporrà di portarli a 7 o a 9, ma soprattutto la questione è dare una definizione precisa, perché qui sembra davvero che si sia fatto un passo indietro rispetto anche alla definizione che si dava dei senatori a vita, appunto, che avevano delle caratteristiche ben precise, appunto devono essere uomini o donne di scienza che avevano illustrato, e che comunque in questa nuova formulazione insiste moltissimo. Quindi insomma, occhi puntati anche solo su questa parte che è importante, giustamente, perché non bisogna fare passi indietro, almeno su questo. Siamo giunti allo scadere del tempo. Io ti ringrazio, Armando, e come detto appuntamento più avanti, senza specificare. Grazie mille intanto e buona domenica direttore del Domenicale. Noi ci fermiamo qua. Grazie, facciamo una pausa, poi c'è il giornale radio, torniamo subito dopo, riprendiamo con Si può fare e anche con i vostri interventi, cari ascoltatori. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, nuovo in diretta 800 24 00 24. Potete chiamare per commentare quello che sentite, potete chiamarci per raccontare che cosa ha reso più bella la vostra settimana. Anche oggi in palio biglietti e catalogo per le mostre Pre-Raffaelliti a Torino, Andy Warhol a Roma. Sulle note di Britney Spears, se leggete il testo di questa canzone, insomma, si dice: vuoi la macchina bella, lavora, vuoi tante belle cose, lavora, lavora, lavora. Ma c'è una nuova tendenza che si sta affermando niente poco di meno che nella City di Londra, di tante persone, professionisti che come dire, non vogliono più ascoltare le sirene delle grandi compagnie che li fanno lavorare sempre di più, dandogli stipendi sempre più alti. Una scelta forse di decrescita anche questa, o un recupero di uno stile di vita più basato sul tempo libero. C'è una clausola che ti fanno firmare se lavori alla City di Londra, ed è quella di rinunciare all'orario di lavoro di 8 ore o 9 ore, quello che è, ma di metterti a disposizione completa dell'azienda, che ti fa anche lavorare fino a 20 ore al giorno. Ebbene, molti stanno rinunciando a questo perché non ne possono più, evidentemente. Ne vogliamo parlare con chi ha scritto un bel articolo su questo, sulla nuvola del lavoro, sul Corriere della Sera, Chiara Albanese. Buongiorno, Chiara. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Tu hai raccolto le storie di alcune persone che lavorano appunto alla City di Londra, grandi compagnie, la finanza, ma anche grandi aziende, designer, architetti, c'è di tutto, che a un certo punto stanno valutando di fare questa scelta di vita. E noi questa cosa ci è piaciuta, ci sembra un si può fare anche questo a modo suo. Ci racconti che cosa, quali sono le storie in cui ti sei imbattuta? Sì, certamente. Allora, a Londra tradizionalmente gli orari di lavoro sono abbastanza rispettati. È tipico in qualsiasi azienda lavorare dalle 9 alle 5, dalle 9 alle 6 e poi poggiare la penna, spegnere il computer e andare a casa. Questo ovviamente non si ritrova nella City, quindi nel mondo della finanza, in particolare nelle banche d'affari, negli studi legali, nelle società di consulenza, dove gli orari tipici non esistono, nel senso che si inizia spesso alle 7 per finire a mezzanotte, per finire alle 2, dormire 4 ore oppure tornare a casa per una doccia e tornare in ufficio immediatamente. Negli ultimi anni è diventato anche un pochino un simbolo questo lavorare in modo eccessivo, diciamo un po' una prova da superare nei primi anni per poi raggiungere una promozione. Ora, negli ultimi mesi, in particolare dall'estate scorsa, diciamo, ci sono stati una serie di scandali, la morte di alcuni ragazzi, le banche che hanno iniziato a introdurre delle nuove regole per limitare questo lavoro eccessivo, come per esempio la regola di spegnere il BlackBerry la domenica, che può sembrare folle alla maggior parte, ma hanno dovuto introdurla per far sì che non si lavorasse anche la domenica. Ora, quando si firma un contratto di lavoro per una banca d'affari, per uno studio, si rinuncia automaticamente al limite di ore stabilito, quindi praticamente consegnando in mano quasi la propria vita, si può dire, Chiara? La propria vita. Sì. Esatto, proprio. Quello che sta succedendo ora è che i professionisti dicono: a me non interessa. Ho parlato per esempio con questo avvocato recentemente che, dopo aver lavorato per diversi mesi giorno e notte, ha avuto purtroppo un attacco di depressione, di stress, e si è ritirato in campagna in malattia per dei mesi. Tornato al lavoro ha detto: io la salute è la priorità, io rinuncio a una parte dello stipendio per lavorare l'orario previsto al mio contratto, diciamo, questo paradosso. Quindi, scusa, una prima cosa che possiamo dire, Chiara, è che queste storie che tu hai raccolto, insomma, in parte almeno nascono proprio da un sintomo forte come quello della crisi della propria salute. C'è in effetti una cosa che la gente non capisce, magari la gente che non ha la fortuna di lavorare alla City di Londra, o la sfortuna, a questo punto viene da dire, dipende, o comunque di non lavorare per aziende importanti, per compagnie di primo piano o multinazionali o quant'altro, è questa: come mai chi lavora appunto in queste aziende gli viene chiesto di lavorare sempre di più e poi c'è un sacco di gente disoccupata? Questo francamente non si riesce a capire, ed è insomma un interrogativo che sta alla base di tutto questo, perché se si potesse far lavorare di meno senza portarli alla crisi o alla depressione, ma queste persone, o senza mettere appunto in crisi la loro salute e far lavorare altre persone, non sarebbe più semplice? Chiaramente questa è una domanda a cui non possiamo rispondere né io né te. Detto questo, però, ci stavi raccontando appunto di questo, che era un caso, ma ce ne sono anche altri che tu hai raccolto. Assolutamente, è un, diciamo, il problema, ecco, per rispondere un pochino alla domanda a cui non si può rispondere, il problema è che questo lavoro eccessivo non è dato alla necessità di lavorare, ma è più da uno stile di vita che è diventato un simbolo, cioè si lavora non per produrre, ma per dimostrare agli altri che si lavora di più ormai, quindi in realtà non aumenta poi la produttività, perché dopo 10 ore di fronte a uno schermo, nel senso, sfido io a essere ancora produttivi. In ogni caso, sì, diciamo che questo sta diventando abbastanza comune, tant'è che ho parlato anche con dei ragazzi che lavorano, e questo sta succedendo soprattutto, diciamo, tra i più giovani, cioè tra nella fascia di chi ha dai 5 ai 10 anni di esperienza, perché capisce che ha dimostrato già in parte di essere in grado di farlo, ma non vale la pena. Poi, andando avanti nella carriera, di solito gli orari di lavoro diminuiscono un pochino con le promozioni. Sì, poi ho parlato con quest'altra ragazza che invece lavora in una banca d'affari e è andata in maternità, è tornata alla maternità e ha deciso che di rinunciare anche lei a una parte dello stipendio per poi tornare a casa a un orario, diciamo, civile, che sarebbero verso le 6, mentre lei entra in ufficio verso le 7:30, e vedere come va. Lei mi ha detto molto tranquillamente: io non escludo di avere dei problemi o di essere richiamata dal mio capo per un possibile anche licenziamento, sì, ma questa è una cosa che io accetto, perché la mia priorità è la famiglia, a questo punto è il bambino, insomma. Purtroppo sì, diciamo, a volte, sai, quando bisogna essere su un cliente, ricevere e rispondere alla chiamata alle 10 di sera e via dicendo, a volte se non ci sia la prima volta, non ci sia la seconda, non ci sia la terza, potrebbe avere dei problemi. Insomma, a noi ci sorprende che ci sia questa, non so poi, è Chiara, se è possibile definirla come una scelta di decrescita o recupero di uno stile di vita meno basato sul lavoro, cose che solo alcuni anni fa sarebbero state impensabili. Basta vedere anche film recenti come The Wolf, quello con DiCaprio, su com'era la vita nelle società che gravitavano intorno alla borsa negli anni 80 e 90. Segnali interessanti di qualcosa che sta cambiando nel mondo, appunto, almeno per quanto riguarda Londra, della City di Londra. E abbiamo anche in collegamento telefonico, sempre da Londra, Alberto, buongiorno. Buongiorno. Un ragazzo italiano che lavora proprio alla City di Londra, lo teniamo così, senza cognome, senza fare riferimento preciso all'azienda per cui lavora, per questioni di anonimato. Alberto, però, diciamo che la tua storia è quella di un italiano immigrato a Londra per seguire il sogno della City e anche realizzarlo. Ma sì, direi che ormai dal 98 che mi sono trasferito a Londra, quindi ho cominciato, come diceva Chiara precedentemente, ho fatto, diciamo, la gavetta partendo da analista e rimanendo poi, diciamo, all'interno di queste banche d'affari internazionali americane per tanti anni, e sono forse uno dei pochi, adesso magari faccio un minimo commento, uno dei pochi che è rimasto, perché ho avuto un po' un mix di stimoli positivi e di persone con cui ho lavorato che mi hanno sempre motivato ad andare avanti, e quindi sì, ho vissuto un po' questa fase. Direi che quello che diceva diciamo la Chiara precedentemente è, sì, diciamo, in linea di massima vero. Direi che queste ore richieste alle persone, soprattutto giovani, ma anche più si va avanti, è vero che sono richieste, quindi 60, 70, 80 ore di lavoro alla settimana. Però perché? Così direi che due commenti. Il primo è che è relativo a un gruppo, diciamo, di persone abbastanza limitato, nel senso che uno quando pensa alla City, i lavori nella City sono molto vari, si lavora sui mercati, quindi quando il mercato azionario è aperto dalla mattina, diciamo la mattina fino alle 4-5 del pomeriggio, poi si chiude, sono dei lavori di supporto, di back office e di altre cose. In realtà in questi lavori delle banche d'affari e di avvocati d'affari, che sono sì, diciamo più legati a operazioni di M&A o di operazioni di finanza straordinaria, non ci sono limiti di tempo perché è tutto legato al cliente. Ricordiamoci che siamo in un'industria dei servizi, per cui uno non può dire vabbè adesso vado a casa, adesso se il cliente chiama una certa ora, bisogna di valutare una certa operazione, bisogna essere disponibili, che è un po' ho diciamo, capito, però Andrea, Alberto, scusami, ma se sì, 60-70 ore di lavoro alla settimana sono, nemmeno un Highlander potrebbe sopportarle. Tu sei arrivato a fare anche 60 ore di lavoro alla settimana, 70 ore? Ma sì, ma perché scusa, adesso non è per dire, se uno comincia alle 9 di mattina, no? Poi si comincia sì, a fare delle analisi, dei lavori, delle cose, è abbastanza verosimile che uno finisce, non so, verso le 10, le 11 di sera, perché c'è una pausa pranzo, c'è le cose, si parla con le persone. Beh certo, ci sopravvive, questo lo immagino, non saresti qui con noi a raccontarlo. Però arrivare fino a 80 ore sembra veramente pazzesco. Naturalmente ci sono dei motivi per cui si arriva a questo, sì, questo mi sembra giusto ricordarlo. Per quanto riguarda però quello che diceva Chiara Albanese, tu hai riscontrato attorno a te persone che abbiano fatto la stessa scelta di cui parlava Chiara, tu stesso ci stai pensando oppure per ora ti va bene così? Guarda, ti dico, facendo il mio caso personale, quando 15 anni fa abbiamo cominciato, diciamo, la mia banca, abbiamo cominciato in 60 persone, cioè nel senso 60 nuovi laureati sono entrati con la speranza di continuare ad andare. Siamo rimasti dopo 15 anni due persone, perché? Non perché le altre persone siano state meno Highlander, come dici tu, o meno, perché poi durante, diciamo, questo percorso la gente cambia, il turnover, diciamo, il cambio di lavoro nella città, certo, è molto grande, cioè a parità di, io ho degli amici che hanno cominciato con me lo stesso, diciamo, periodo professionale, hanno cambiato 4-5 lavori. Quindi direi che queste regole del gioco, di dover lavorare comunque tanto, eccetera, sono abbastanza capite da chi comincia questo lavoro, però chiaramente la gente, ci sono due cose. Uno, non rimane sempre, non te lo obbliga il dottore o nessuno di lavorare, uno può cambiare, girare, fare, tornare in Italia. Quindi uno è questo. E poi, in effetti, come diceva l'intervista precedente, ci sono più e più sistemi, sempre di più questi sistemi di flessibilità, per cui lavorare un pochino. Un esempio che è stato introdotto recentemente è che questi ragazzi giovani che lavorano in banche d'affari hanno almeno un weekend garantito al mese in cui non possono essere chiamati in ufficio per lavorare o per portare a casa. Viva Dio, almeno un weekend! è chiaramente una scelta di vita, perché penso molti di quelli che ci stanno ascoltando e che pensano qua non si riesce a far lavorare la domenica le cassiere dei supermercati, figuriamoci. Certo, parliamo di altri stipendi, perché poi conta l'incentivo economico. Ti posso chiedere, visto che stiamo parlando in anonimato, a quanto si aggira lo stipendio dei tuoi colleghi, non dico il tuo, ma insomma di chi fa questo tipo di scelte di vita, lavorando anche 60, 70, 80 ore alla settimana con un weekend solo libero al mese? Guarda, non è corretto fare dei riferimenti, comunque sono dei riferimenti, sono dei salari comunque importanti, nel senso che vorrei dire, un ragazzo che lavora 2 o 3 anni in una banca d'affari riesce, diciamo, come equivalenza a avere uno stipendio uguale a, non so, una persona che lavora in una banca italiana dopo 6 o 7 anni di lavoro. Quindi c'è un'accelerazione, diciamo, del salario rispetto, però un elemento importante per capire, per mettere un po' in contesto, è che di solito il salario base è metà, diciamo, del salario totale. E poi ci sono gli incentivi. E come sono legati gli incentivi? Gli incentivi sono, c'è un processo di valutazione a fine anno, sì, che in base alla tua performance, 10 o 12 dei tuoi, okay, diciamo, colleghi che hanno lavorato. Ok, però Alberto, una cifra faccela, lasciaci con una cifra, così riusciamo a mettere sul piatto della bilancia le 80 ore alla settimana e dall'altra parte il miraggio di uno stipendio di quanti mila euro al mese? Ma diciamo che parliamo delle centinaia di migliaia rispetto che le migliaia, diciamo, no? E quindi questo è un po'. Non al mese, diciamo, spero, parliamo all'anno. No, annuale. E poi chiaramente esponenziale, diciamo, più si va avanti, più anni. Per cui, insomma, si sale sul carro per 5, 6, 7, 8, 9 anni, quello che si può, si porta via il possibile, si lavora come dei matti e poi ci si va a curare in campagna, in Toscana. No, direi che si fa esperienza, si mette sul curriculum e poi si cerca magari un lavoro un pochino più a misura d'uomo, oppure comunque l'importante è questo: chi entra, chi fa questo lavoro sa quali sono le regole del gioco. Certo. Di solito la maggior parte sta a breve termine, 3, 4, 5 anni poi cambia, altri che sono più fortunati oppure hanno diciamo... Restano e trovano un loro modo di andare avanti. Va bene, grazie mille Alberto, in bocca al lupo per il tuo lavoro alla City sicuramente, per il tuo futuro. Un italiano all'estero, un italiano al suo modo anche di successo. Ringraziamo anche Chiara Albanese, che è stata con noi, giornalista che collabora con la Nuvola del Corriere della Sera, Nuvola del Lavoro del Corriere, che meritoriamente si occupa di storie di lavoro, è un interessantissimo aggregatore di notizie e quindi andatelo a visitare. 800 24 00 24, cari ascoltatori, voi che cosa ne pensate? Quali sono le vostre scelte di vita? Quanto vale per voi il vostro tempo, il tempo libero? Abbiamo fatto l'esempio del cassiere che non vogliono lavorare la domenica per non avere interrotti i loro tempi di vita, certo a fronte di stipendi che non sono paragonabili con quelli di cui abbiamo appena parlato, di Alberto, però questione di scelte. Si può fare cronache da un paese migliore. Minuti, buongiorno e buona domenica, l'ultima per questa stagione, con la lacrimuccia a Carlo Gabardini. Buongiorno Alessio, buongiorno e buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Sì, sono tristissimo. Un po' di mestizia per noi, sì, magari solo per noi, cioè all'esterno sono più felici, festeggiano che non c'è più il programma, no, spero che non sia così. Per questa stagione, diciamo, siamo a questo punto, giusto? Sì, per questa stagione, a giugno ci fermiamo, poi ci saranno un po' di repliche, ad agosto faremo comunque una versione serale, estate, allora la zanzara, poi a settembre non si sa, riprenderemo credo in base a quello che sarà il palinsesto autunnale. Stagista sono, quindi dovete decidere voi, insomma. Aspetterò tutta l'estate col telefonino acceso, guardandolo, fissandolo, per vedere se c'è una conferma. Se arriva la chiamata. La chiamata, esattamente. Carlo. Molto bene, allora. Ieri un'altra giornata impegnativa per te. Ieri veramente una giornata campale, direi, per il Milano Pride, il Pride, il Gay Pride, diciamo, che c'è stato in tutta Italia, l'Onda Pride. Una settimana campale, perché ricordiamo che il Pride non è solamente la parata con i carri, sì, la musica e tutto, ma è stata in tutta Italia quest'anno un'intera settimana in ogni città, fatta di eventi, di incontri. Qualcuno oggi ha titolato il Gay Pride dei sindaci di sinistra, perché erano presenti tutti, Fassino, De Magistris, Pisapia. Ieri sì, c'è stato anche Pisapia che alla fine della parata. Quanto secondo te è sincera questa partecipazione? Quanto, perché poi insomma adesso stanno al governo, una legge ancora non c'è, e quanto c'è di strumentalizzazione, come sempre? Guarda, domanda delle 100 pistole. No, è giusto, non te lo so dire. Sicuramente c'è anche una parte di andare a prendersi una fetta di elettorato, se vogliamo, però va anche detto che alcuni di questi sindaci hanno realmente fatto delle cose, da Pisapia che ha fatto la lista delle unioni civili, poi dopo c'è anche chi dice che in realtà non serve quello ma serve la legge, in realtà, ma proprio a proposito di questo, devo dire, anche il fatto di reputarci, diciamo, una fetta di voti, una fetta elettorale, personalmente non mi spiace, devo dire. Ieri io, parlando alla fine, due minuti in realtà, alla fine del Gay Pride, ho detto molto precisamente, ho detto: ma scusate, ma forse dobbiamo fare la lobby davvero, nel senso, visto che si straparla a volte di lobby gay quasi sempre per delle notizie assurde, tipo se c'è un omosessuale che fa lavorare un altro omosessuale, si grida lo scandalo alla lobby gay, quando onestamente ci sono molti eterosessuali che fanno lavorare altri eterosessuali e non è che in quel momento entra la polizia dicendo: fermi tutti, questa è la lobby eterosessuale. Quindi è un po' strumentale in quel senso. E io, come provocazione, perché ovviamente questa cosa alle associazioni, a chi giustamente lotta per i diritti, può sembrare un passo indietro o un passo sbagliato, però dicevo, ma forse dovremmo veramente fare la lobby gay. E dico questo tra l'altro per un motivo molto preciso, perché abbiamo visto per esempio il caso Barilla, che tra l'altro nasce esattamente da questi microfoni, quindi dai microfoni della Zanzara. Il caso Barilla ha mostrato molto chiaramente che nel momento che si va a toccare i soldi, cioè nel momento che gli Stati Uniti, il movimento LGBT degli Stati Uniti ha deciso di non comprare più quella marca, il giorno dopo Barilla ha dovuto chiedere scusa, il giorno dopo. E questo lo dico molto semplicemente perché ci si dice sempre, ah, quanti sono gli omosessuali, non ci si riesce a contare, è molto difficile. Invece i grafici degli economisti sono molto precisi, loro il giorno dopo si sono accorti molto precisamente quanto contasse. Io volevo... No, ma questo secondo me è molto importante, perché no. è un cambio in realtà radicale nel momento che tu dici, non so come dire, riconosciamoci come anche target economico, anche perché l'economia, al contrario della politica, guarda al portafogli e non gli interessa niente quello che c'è dentro nelle mutande. Mi viene da ridere solo perché volevo solo introdurre l'argomento e ho scatenato il testimonial che è in te. No, perché mi interessa, no, ma avrei voluto comunque parlare di questo, perché sì. A parte che ne ho parlato anche il giorno prima del Pride, quando con i giovani democratici ci siamo trovati a fare una conferenza, e parlavo con Luca Morelli, che in realtà è il presidente dell'associazione LGBT che si chiama BEST, ed è l'associazione LGBT della Bocconi, quindi di economisti stiamo parlando, di ragazzi che studiano economia, e anche lui conveniva sulla questione del fatto di forse di costituirsi lobby, cioè è una questione, o poi è ovvio che è una provocazione, in Italia le lobby riconosciute non ci sono, quindi è una realtà americana, di nuovo insomma diventa un altro problema, però sarebbe molto interessante. Poi ovviamente il bello di ieri è stato anche che non ha piovuto, questo possiamo dirlo così per alleggerire. Una buona nel senso notizia. Un po' piovuta, ha fatto due gocce qua e là. No, perché io ero molto agitato che piovesse, perché ho detto se qua diluvia, sì. Cioè il Gay Pride, secondo me ci lasciamo giù una scia di rimmel, fondotinta e ciglie finte che secondo me danno fastidio alla città, per questo lo dicevo. Quindi per fortuna che non ha piovuto, insomma. I meteorologi sono etero, visto che avevano detto che avrebbe diluviato, forse Dio è un po' meno etero. Adesso io ho un problema, o metto la sigla e chiudiamo. No, la ma oppure, anche una notizia che invece oppure, ho una notizia breve che ci riguarda, che mi sembra giusta anche a chiusura di questo anno, dove abbiamo parlato spesso e volentieri, certo di omosessualità, ma spesso e volentieri di marijuana. È nata In Joint, diciamo, che viene dall'Olanda, ed è la prima sigaretta elettronica a forma di canna. Tranquillizzo subito tutti, è una sigaretta del tutto innocua, non contiene il THC, che è il principio attivo della marijuana, è semplicemente un gioco. Vogliamo, assolutamente, va a ruba in questo momento. Mi sembra interessante anche perché in quest'anno io sono assolutamente favorevole alle sigarette elettroniche, avevo smesso di fumare con la sigaretta elettronica, poi il giorno del mio coming out ho iniziato a fumare, quindi se qualcuno vuole fare dei parallelismi tra la gaitudine, il fumo mi sembra divertente, no. Ma comunque no, è questo. Però la chiusa di questa notizia in realtà è che presto, si dice, potranno arrivare sul mercato invece dei joint elettronici veri e propri, cioè che contengono il THC. Questo risponde sarebbe un po' la fine di tutto, secondo me questo. No, risponde un po' a una domanda che noi due ci siamo fatti spesso quando avevamo ospiti che ci parlavano di questo, ovvero chi usa o intende usare la cannabis a scopo terapeutico, come fa ad assumerla. Questo sarebbe un modo per assumerla, perché non ha nessuna controindicazione, oltre ovviamente al THC, che uno può essere favorevole, contrario, a quello che vuole. Diciamo che noi abbiamo lasciato il sindaco di Racale, Donato Metallo, la sua disponibilità a produrre cannabis sui territori in Puglia del suo comune, proprio per non importarla dall'Olanda, quella che si usa a scopo terapeutico e serve a molte persone che hanno molte malattie, ed è una cosa serissima questa qua. Però per il momento in Italia non si può ancora fare. No, però è interessante perché questa cosa diventa innocua a quel punto, siccome ci chiedevamo ma com'è possibile, uno già è un malato terminale, poi deve farsi anche la canna, che abbiamo la sensazione che faccia malissimo nel momento che fuma e quindi assume anche del catrame. Va bene, facciamo che sentiamo qualche ascoltatore per il momento, prima di andare in pausa sul traffico. Luigi da Roma, buongiorno. Vediamo se abbiamo scatenato qualcuno sul tema del lavorare troppo o meno nella City di Londra. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sentivo l'argomento per radio, volevo intervenire, in quanto io lavoro in una società di consulenza da un paio d'anni, sono neolaureato, 2 anni fa mi sono laureato e ho trovato questo lavoro, e gli orari di lavoro di 60 ore settimanali sono piuttosto la norma, anche senza gli stipendi della City. quindi si lavora. Detto con un po' di malinconia da parte sua. Sì, diciamo che ti danno qualcosa, ti chiedono un po' la vita per lavorare per loro, però ti fanno fare carriera abbastanza velocemente, ti danno un aumento una volta l'anno, che può essere anche cospicuo, in percentuale almeno. Però si lavora 60 ore a settimana tranquillamente, i weekend, tutti, il telefono deve essere sempre acceso, neanche se stessero salvando. Ma io questa domanda la voglio fare anche a lei, visto che ha avuto questa esperienza. Perché invece di prendere una persona e strizzarla e farla lavorare 80 ore, non ne prendono due e le fanno lavorare 40 ore normalmente? Ma perché in realtà neanche è, perché è naturale dover lavorare così, non è che una questione di risorse. Aumentano le risorse, ma tutte, noi, nella mia azienda, che è una delle più importanti Big Four, come si suole chiamare, hanno assunto 10 persone durante l'anno da quando sono entrato io, quindi, però non è che i carichi di lavoro si sono andati a diminuire per tutti, sono semplicemente tutti portati a un carico di lavoro 60 ore settimanali come minimo. E poi costa meno in realtà di solito pagare gli straordinari piuttosto che avere un'altra persona assunta che è assunta per tutta la vita. Ma gli straordinari non si pagano. A parte che poi in molti posti straordinari non si pagano, certo, è questo. Beh, però vi aumentano lo stipendio e a fine dell'anno sì, attraverso varie modalità. Va bene, Luigi, insomma, soddisfatto di questa esperienza o vuoi cambiare? Vuoi cambiare? Diciamo, voglio cambiare perché ti prende un po' la vita. Soddisfatto sì, perché ti permette di conoscere un sacco di posti, un sacco di persone diverse, di fare un sacco di esperienza, un sacco di conoscenza. Va bene. Che non potresti fare, quindi è un dare e ricevere, anche se danno pochi soldi, ma ti danno tanto da altri punti di vista. Pochi soldi, poi quanti? Si può dire? Quantifichiamo? Sì, io prendevo 23.500 euro per il primo anno e mezzo, adesso me l'hanno alzato a 28.000. Parliamo di lordo o netto? Lordo anno. Per quante ore lavorate? Dipende dai periodi, diciamo che da gennaio fino adesso ho lavorato almeno 60 ore a settimana, tutti i weekend compresi. Però 2000 euro al mese, anche meno, lordi, per lavorare 60, 70, 80 ore a settimana non sono... Forse non sono tanti. Grazie, non per farti i conti in tasca, Luigi, ma semplicemente per così, per argomentare. Giuseppe dalla provincia di Catania, buongiorno. No, Gabardini, che ne pensi? 2000 euro lordi al mese per lavorare 80 ore, cioè il doppio di un... No, non mi sembra buono come paga, però in realtà la questione mi sembra esattamente questa. La questione è anche un po' la passione che hai nel lavoro. Faccio l'esempio su di me, io quando scrivevo Camera Caffè, altro che 60 ore a settimana lavoravo, ma molte di più, credo che ne lavorassi 100, nel senso che stavo lì dalla mattina fino all'alba del giorno dopo. Lo decidevo io, ero sicuramente molto ben pagato, ed è un altro tipo, e questo ci sta perché è una mia scelta. Il problema è che dico sempre, io in realtà ho scelto di essere precario, non ho mai voluto sapere che lavoro avrei fatto il giorno dopo, e quindi mi piace il fatto che non lo so, però questo funziona se poi quando lavori sei molto ben pagato, di modo che puoi stare poi senza lavorare per un mese o due mesi. Se tu invece sei precario e in più prendi 800 euro al mese, questa cosa è insostenibile. Giuseppe da Catania, lo sentiamo dopo il traffico, però ci fermiamo un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Allora, l'ascoltatore annunciato credo che sia caduto. Ne abbiamo però un altro, direi. Antonino da Parma, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Buongiorno, tocca a lei. Buongiorno. No, vorrei soltanto dire che non c'è bisogno di andare a Londra per lavorare 70-80 ore a settimana, perché io, mia esperienza o da dirigente o da commercialista, le 10-12 ore al giorno per 7 giorni a settimana, diciamo, sono fenomeni che ho vissuto più volte, quindi non è così difficile. E poi, per aggiungere una cosa a quello che diceva il giovane che lavora per una delle Big Four, compreso nello stipendio c'è anche il valore della formazione, perché quando diceva giustamente che impara, conosce tante cose, naturalmente nella sua esperienza c'è una parte di valore che gli viene corrisposto in termini di stipendio, e c'è una parte di valore che gli viene corrisposto in termini di conoscenza, perché naturalmente lui, continuando a lavorare per quella società, poi naturalmente avrà una progressione, perché gli stipendi dei manager dei Big Four sicuramente... Questo anche è un argomento non del tutto fuori luogo, Antonino, in effetti è vero, il discorso della formazione che sta ricompresa all'interno di quello che poi è uno stipendio, perché comunque si impara, vale un po' per forse per tutti i lavori, però insomma... Giuseppe da Catania, glielo dovevamo il collegamento, perché c'è? Pronto? Sì, pronto, sì, ci sono. Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, niente, io ho sentito un po' gli interventi. Sì. La base volontaria di un lavoro uno ne può fare anche 100 ore a settimana, dipende da come lo vuole fare, ma è su base volontaria. Mentre questa modo di flessibilità, vedi call center, vedi questi signori che lavorano 60 ore a 2000 euro al mese, credo che obiettivamente siamo davanti a un'altra forma di schiavismo che stiamo cercando di legalizzare. Credo che l'essere umano ha dei tempi, dei ritmi che vanno rispettati, questo glielo dice un medico, se mi permette. Lei è medico? Sì, sono medico, e questo le posso dire, che il genere umano non può andare oltre certi limiti, e non si può far camminare una macchina sempre a 300 km all'ora, alla fine si sfascia. Giuseppe, lei è stato lapidario, però... Ma è molto preciso, credo che... mi sembra perfetto, poi dal punto di vista medico è così, beh, ci mancherebbe altro. No, io le posso dire soltanto, sì, che se una persona volontariamente fa una cosa, scattano dei meccanismi interni che possono fare mettere l'organismo in condizioni tali da poter sopportare. Cioè uno si mette sotto stress perché ha una grande motivazione e poi a un certo punto schianta. Quante ore, secondo lei, dal punto di vista medico, si possono lavorare? Non è proprio semplicissimo da fare il conteggio, perché ovviamente lei può ben capire, dipende dal lavoro. Certo. È chiaro, ci sono i cosiddetti lavori usuranti, che lei può ben capire che sono molto più stressanti rispetto ad altri. Un lavoro di tipo intellettuale evidentemente potrebbe essere in teoria meno stressante, però in teoria sempre, perché poi in pratica può succedere tutto e il contrario di tutto. Perché quando la gente è messa davanti a un computer oppure davanti a un call center dove prende 400 euro al mese uno che è laureato, e quindi non so se mi spiego, parliamo di 400 euro al mese, credo che sia veramente drammatico per una persona, che lei sa che spesso poi gli straordinari vengono messi, come si dice, di canto. Quindi questi 400 sono reali comunque a tutti i costi, e spesso si lavora anche 40, 45, 50, 60 ore per uno stipendio che, mi consenti di dire, da fame. Ripeto, ho paura che siamo davanti a una forma di schiavismo. Giuseppe, concordo. Lei potrebbe fare il consulente per alcuni di questi ragazzi della City o anche delle società di consulenza che potrebbero avere dei problemi a fare straordinari. Sì, in realtà parlando molto più di call center, che mi sembra molto di più il problema, perché effettivamente nella City, diciamo, è uno di solito è giovane, insegue un sogno e quindi pensa che quella cosa sia preparatoria a un tempo in cui o lavorerà meno oppure l'unico suo desiderio è quello, diciamo, di arricchirsi molto. Però invece quelli che lavorano in un call center hanno c'è un poco da scegliere, non so come dire, nel momento che prendi 400 euro ti tengono per le palle, detto con un francesismo. Esatto. Adesso è il momento di ricevere l'ultima cartolina dalla periferia, e ce la invia come sempre in domenica a quest'ora Simone Saccucci. Buongiorno Simone. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Simone, ci salutiamo qua perché poi il programma, come abbiamo già abbondantemente detto, viene sospeso, ci fermiamo per l'estate, insomma almeno per luglio, poi chi lo sa ad agosto cosa faremo. E tu invece vai avanti col tuo progetto di teatro canzone. Oggi di che cosa ci volevi parlare? Ecco, oggi faccio una proposta, visto che è l'ultima cartolina. Allora faccio una premessa: noi che viviamo in periferia a volte ci sentiamo o siamo effettivamente disabili. Sì, ci dicono che siamo diversamente abili, però ci sentiamo lo stesso disabili. Anche quando in periferia migliorano la viabilità o costruiscono bei complessi residenziali, ci sentiamo comunque così. Ma oggi voglio fare, come vi dicevo, una proposta precisa. Ho fatto un'esperienza e ve la voglio raccontare. Per circa un anno ho lavorato insieme ad Andrea, un uomo di 40 anni che vive in una comunità di adulti disabili. Ha un lieve ritardo mentale ed è sulla sedia a rotelle, fin da bambino. Lui mi ha raccontato la sua storia di vita per circa una volta alla settimana per un anno. Da questa sua storia di vita è nata con lui una sceneggiatura di uno spettacolo teatrale che abbiamo portato a teatro mercoledì scorso. E a recitare è stato proprio Andrea. In una scena Andrea riceve un regalo, siamo a Natale, e questo regalo è il camminare da solo. Ovviamente dopo questa scena lui ha continuato a stare sulla carrozzina, chiaramente, ma la sensazione comune, anche parlando poi col pubblico, è stata proprio che effettivamente lui stesse camminando da solo. Ecco, quando racconti tutto diventa vero e può creare effetti molto precisi. E allora ecco la proposta, e vi saluto così. Abbiamo una possibilità per accettare che siamo in fondo un pochino disabili, noi che viviamo in periferia. Possiamo raccontarci, però non così una volta ogni tanto, sistematicamente, in gruppo, creando occasioni, creando luoghi dove ci si possa raccontare, in positivo, magari eliminando il più possibile la polemica. Io almeno da Andrea ho imparato questo e lo auguro a tutte le periferie che poi alla fine ho pensato che sommate fanno l'Italia. Saluti a tutti. Grazie Simone. Grazie Simone, ciao. Buona estate. Ciao. Buona domenica. E il francobollo della cartolina di oggi è la canzone di Simone Saccucci. Questa è casa mia. Qua dentro in questa casa tutti quanti i miei nipoti ci sono cresciuti. Noi a Villalba ci siamo nati, noi a Villalba ci siamo nati. Questa è casa mia, nemmeno a cannonate me ne vado via. E allora, prima di chiudere questo blocco, Carlo, dobbiamo dare l'indizio del personaggio della settimana, che anche oggi vi invitiamo a indovinare ai nostri microfoni 800 24 00 24. Vai tu? No, vai tu. Vado secondo io. Me, Ale, giusto? Sono più preparato, esatto, questa volta. Il nostro personaggio della settimana è Nonno. E così partiamo, secchi, poi vediamo, eh? E poi vi aiuteremo di più, diciamo. Vi aiuteremo di più. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were two days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. I thought, hello, new shoes, bye bye blues. Eccoci qua di nuovo in diretta, 10 minuti, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Se invece volete interagire in tempo reale con noi, ci trovate su Twitter, l'account del programma è chiocciola si può fare 24. Il mio invece è chiocciola Le Maurizi. E il mio è chiocciola Carlo Gabardini. Lo so che tu sei un fan. Un fan di? Di One Direction. Sì, esatto, esatto. Ma no, ma questo è Paolo One Mutini. Direction, è vero. Abbiamo vero, parlato certo. Prima delle One Direction, sei stato anche tu al concerto? No, ero al Gay Pride io. Non ti facevano entrare per questioni di età, secondo me. Tu sce Alessio. Non lo so, però credo che la media dei fan siano dei sedicenni. Sì, anche meno, perché ho visto in giro. Tra l'altro stavo anche pensando dal punto di vista economico, è abbastanza geniale, perché praticamente per ogni fan tu vendi due biglietti, perché la maggior parte di questi ragazzi era accompagnata dai genitori. Quindi è perfetto. Bello che stiamo ascoltando Paolo Nutini parlando di One Direction. Chiedo scusa Paolo Nutini, ovviamente. Totale, assoluto. Ovviamente. Vabbè, questo è il rientro musicale che si può fare ogni sabato e ogni domenica a quest'ora. È New Shoes, una canzone del 2006 di questo cantante di origini italiane, come si capisce dal nome, anche se lui è scozzese. Che si può fare, che ci è stato consigliato, giusto? Esatto, dall'ascoltatrice, adesso lo troviamo da qualche parte, Mirella Maddaloni. Esattamente. Anzi, la ringraziamo molto e chiediamo scusa per aver parlato di One Direction. Sì, assolutamente. Il personaggio della settimana è un nonno per il momento, poi sarà anche qualcos'altro tra poco. Sentiamo qualche ascoltatore, per esempio Mauro che ci chiama da Livorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, prego. Secondo me il personaggio di oggi, nonno, dato che oggi è il suo compleanno, è il padrone del Quirinale. Il padrone delle ferriere. Della Repubblica Napoletana. È il suo presidente napoletano. È oggi il suo compleanno. Certo. Gli facciamo moltissimi auguri, ma non le ha fatto vincere il premio. Perché non è il personaggio che abbiamo scelto. Ma ne avrei avuto un altro, però se ne può dire uno solo. Uno solo. Bisogna lasciare spazio anche agli altri, Mauro. Grazie comunque per aver partecipato. Dobbiamo dare un altro indizio? Sì, io non sapevo che era il compleanno napoletano. Tu lo sapevi? Non è che mi informo dei compleanni. È una mancanza abbastanza grave. Come abbastanza grave? No, perché... cioè, ho fatto la rassegna stampa stamattina. Tu hai fatto lavoro. La rassegna stampa? Me l'ero persa. Sarà stata colpa di Brasile e Cina, non so, ero concentrato su quello. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo dare un altro indizio? No, aspettiamo. Facciamo prima questo blocchetto di ascoltatori. Chiamiamo Manuela dalla provincia di Monza, Brianza. Manuela, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Prego, sì. Su cosa voleva intervenire? Sì. Volevo intervenire per quel riferimento alle 60-80 ore. Sì. Anzi, sto dicendo, sono insegnante, scuola statale, prendo 1620 euro al mese dopo 26 anni di lavoro. E il mio lavoro consiste in 18 ore piacevolissime, meravigliose, in classe con i ragazzi, più alla settimana 62 ore, credo, di riunioni, lavoro sul registro, incontri, psicologi. 62 ore? Ma perché dici 62 di per arrivare a 80 così? Per arrivare a, ma anche di più, l'ho detto per sì. dire minimo. Ah, no, no, no, no, volevo, pensavo avesse fatto il calcolo ed era interessante, no, nel no, senso che... Il calcolo lo faccio sul numero degli alunni e le prove scritte, sono le prove scritte che sono a 148 alunni per 10 prove scritte nell'arco di circa 8 mesi. Beh, è vero che il tempo di correzione delle prove scritte non viene mai calcolato negli orari. Beh no, credo, che sia, cioè, credo sì. che sia calcolato in qualche modo o non è calcolato? Dunque, diciamo che no, è forfettario, cioè prevedono che tu debba fare un minimo di prove scritte, poi dipende da cosa insegni. Io, insegnando l'inglese, ho bisogno di farle anche più di 5 a botta. Certo. E poi, vabbè, poi ci sono, c'è tutto il contorno, perché quando si incomincia con per i genitori sì. Però posso dire una cosa impopolare, Emanuela, sì. quando si parla di orari di lavoro lunghi, certo non si pensa agli insegnanti come prima cosa, anche se quello che lei dice ha una sua verità, cioè oltre alle 18 ore se ne fanno poi molte di più, però non so se si arriva a 80 con questo senso di tirannia che c'è nelle aziende private. Sì. Anche perché la vulgata... Prego, prego, prego. No, adesso sì, perché io arrivo, non ho mai sabato e domenica. Io la domenica la trascorso correggendo i compiti. Quindi, poi dipende. Ma lei fa troppi compiti, Emanuela. Un compito alla settimana, lasci un po' in pace questi poveri ragazzi. No, sto scherzando. Sono differenti, perché hanno più chance. E poi imparano. Giusto, giustissimo. No, scherzavamo. È una questione difficile questa degli orari nei posti di lavoro dove è previsto un lavoro che non rientra poi nell'orario certificato. Succede soprattutto per gli insegnanti, forse anche in altri lavori. Anche in tanti altri lavori, anche però quello dell'insegnante forse. Mi sembra molto sì. preciso effettivamente, anche perché poi è... Però lei non si lamenta tanto dell'orario quanto forse dello stipendio, è vero? No, guardi, io mi lamento solo del fatto che vorrei fare l'insegnante e non il cane pastore, il carabiniere, la psicologa, il confessore, cioè vorrei fare l'insegnante. Sì, tutti i ruoli supplenti a cui è chiamata a fare la scuola. Tutti i ruoli veramente, il cane pastore è il massimo, perché ti trovi in giro 24 ore su 24 con dei ragazzi incontrollabili, sei responsabile in una maniera paurosa. E più delle volte vieni anche insultato, preso in giro, quindi lasciamo stare, i miei ragazzi sono meravigliosi. In bocca al lupo Manuela, lei per il suo lavoro, grazie per aver grazie. Chiamato. Adesso qua si rischia di aprire il capitolo insegnanti. Che no, però è interessante. Appunto, anche perché in realtà no, secondo me lavorano molte più ore sicuramente di quelle, diciamo, sulla carta. Poi invece la vulgata vuole appunto, poi avete 3 mesi di vacanza d'estate, anche questo, insomma, che non è così in realtà, perché poi c'è un'altra... hanno da prepararsi, da aggiornarsi. Certo, c'è un'altra sua linea, però lo facciamo dopo il traffico, magari, va? Ci fermiamo per una breve pausa. 800 24 00 24. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora come detto su questa lunga coda branduardiana, l'ascoltatore che era già in attesa, Lorenzo da Milano, buongiorno. Lorenzo? Mi sente? Sì. La sentiamo forte e chiaro. Buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Sì, su cosa voleva intervenire? Sul lavoro, sull'orario. Io rimango perplesso a sentire, mi sta sentendo, sì? La sentiamo forte e chiaro. Perfetto, rimango perplesso a sentire la trasmissione dove si continua a parlare di ovvio, di normale, di... Io ritengo certamente, non ho dubbi, che ci siano milioni, non migliaia, di persone in Italia che sono obbligati in una maniera o nell'altra a fare 10, 12, 14 ore al giorno. È possibile che le vedo solo io? Ma le vediamo anche noi. Stiamo parlando di questo che stiamo parlando. Stiamo parlando esattamente di questo. Toccando il caso, diciamo, estremo della City di Londra, da dove è partita una controrivoluzione al contrario, però sicuramente non per parlare solo di quello, siamo aperti anzi a tutti i casi. Prego. Bene, mi fa piacere, perché dalla trasmissione mi sembrava di aver capito che sì, era ancora una cosa di pochi, e invece ritengo... No, è una cosa di pochi, guardi, forse il fatto di rinunciare anche a stipendi importanti per lavorare meno, questo forse sì, però ci racconti quello che ci voleva raccontare lei, o voleva solo puntualizzare questo? No, posso anche raccontarvi che sì, io è da 13 anni che lavoro dal lunedì al lunedì facendo minimo 12 ore. Che lavoro fa? Lavoro. Prego? Che lavoro fa lei, Lorenzo? Cerco di mandare avanti delle attività, sono un ex imprenditore, lo dico per dire che di un po' di aziende che avevo ormai me ne è rimasta solo una che mi dà la sopravvivenza e mi permette, facendo le ore che vi ho detto, sì, di mantenere i miei due bambini. Sì. E di questo voglio anche dire e porre l'attenzione ai separati. Signori, i separati, io vi chiederei, fate una trasmissione, perché loro... La faremo, una trasmissione faremo sui separati? La faremo, no, sugli imprenditori separati? No, la faremo, è una cosa seria questa qua. Lorenzo, che dire, cioè, a parte il tema dei separati che c'entra fino a un certo punto, c'entra... No, ma io lo... Sì, mi faccia dire una cosa, Lorenzo, c'entra il discorso, mi faccia dire una cosa, Lorenzo, mi faccia dire questa cosa qua. Allora, è chiaro che quando parliamo di orari di lavoro, abbiamo dato per scontato che parlavamo di lavoratori dipendenti, chiaramente alle dipendenze che gli viene chiesto di lavorare sempre più ore e non hanno scelta. L'imprenditore è ovvio che si costruisce la sua azienda anche con le ore sudate di lavoro, questo è vero, ed è un tema anche questo, diciamo, è una storia un po' diversa e si può raccontare a fianco a quella, sicuramente non era da lì che siamo partiti, ma non importa. Lorenzo, grazie, però lo salutiamo qua perché voglio sentire qualcun altro sul personaggio della settimana, poi diamo un altro indizio. Carla da Genova. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dare la risposta sul provare. Sì. Pensavo a Mick Jagger. Mick Jagger. Mick Jagger come nonno, perché? Quale sarebbe la notizia del personaggio di questa settimana? Perché è un nonno e perché c'è stato il grande concerto a Roma. Va bene, però lei arriva tardi, Carla, perché avevamo fatto il personaggio la settimana è scorsa. È stato il nostro personaggio della settimana scorsa, i Rolling Stone. In realtà, non Mick Jagger nello specifico. Ci avevamo pensato, però in effetti sarebbe stato, diciamo, un po' ingiusto ripetere lo stesso personaggio, solo Mick Jagger. Poi... Comunque grazie, Carla, grazie. Grazie mille. Dobbiamo dare un altro indizio, direi. A te. Dobbiamo aiutarli. Allora, l'indizio non l'ho scritto io, sennò dopo vengo tacciato di monotematicità. Diciamo. Allora, l'indizio: il nostro personaggio si è schierato contro l'omofobia. Perfetto. Questo è l'indizio. E poi volevo dire un'altra cosa che l'abbiamo promesso ieri, visto che è l'ultima puntata. Volevo dire: chiamateci all'800 24 00 24. Momento. È lo stagista che per la prima volta dà il numero di telefono. L'angolo dello stagista. Ho imparato questo, Alessio, e ti volevo ringraziare. Adesso però andiamo a Torino per parlare di street food. E se quindi deve essere strada, ci deve stare chi ci cammina, e chilometri di passeggiata, e poche case sulla collina, e deve esserci acqua che piove, ci deve essere acqua che piove, per il fiume che porta al mare in fondo a questa vallata. E da qui non si vede granché, ma deve essere strada. Trasformare Porta Palazzo a Torino in un polo dello street food per rivitalizzare l'intero quartiere e il mercato è l'idea, la proposta che arriva dall'assessore al commercio della città di Torino, Domenico Mangone. Buongiorno. Buongiorno, buona domenica a tutti. Buongiorno. Abbiamo convocato subito perché questa idea ci sembra un si può fare interessante e che può anche, diciamo, avere un suo perché, ma può fare anche discutere, perché sappiamo, per esempio, non so, a Roma c'è stata un po' di polemica recentemente quest'anno sulla proposta di Marino sullo street food. di incentivare sì queste, diciamo, la vendita di cibo per strada, cibo magari tradizionale italiano, però è una roba che poi fa arrabbiare alcuni commercianti che dicono, e anche beh, quelli che abitano di fianco a volte, perché sì, dicono ma qua si frigge il pesce sotto le mie finestre, pesce, ci tolgono i clienti dai ristoranti. E però sappiamo che lo street food vuol dire spesso anche spendere poco per mangiare di questi tempi, insomma, può essere un incentivo per il turismo e per rivitalizzare dei quartieri dandogli anche nuova vita. Assessore, la sua proposta per quanto riguarda Porta Palazzo qual è? Partiamo da qua. Ma la proposta su Porta Palazzo è molto più ampia dello street food, perché riguarda anche non solo il mercato, ma riguarda tutti gli immobili che sono tra l'altro di proprietà della città di Torino. Parliamo del quarto alimentare, del quinto alimentare, dell'ittico e del Palatinum. Tra la progettualità che stiamo mettendo in atto su Porta Palazzo, che come è noto è un'area al centro della città di Torino ma con delle forti criticità, tiene conto di una serie di fattori e in maniera particolare delle potenzialità che quest'area può sviluppare. Oggi diciamo che è praticamente monopolizzata dal mercato di Porta Palazzo, che è un mercato tra i più importanti, se non il più importante d'Europa, per presenza di banchi e vitalità di aria, ma che evidentemente può avere anche una vita oltre l'orario di mercato. Allora, per questa ragione abbiamo già approvato delle delibere che incentivano l'apertura di attività di somministrazioni nelle ore serali e nelle ore notturne, in maniera tale da consentire a quest'area di essere illuminata. Per noi che facciamo subito una puntualizzazione, sì, per noi che non siamo di Torino, che non conosciamo Torino, c'è un quartiere importante con un mercato molto grande, quartiere, sì, con delle criticità, magari ci dica anche, sì, quali, e, sì, e che voi dite bisogna farlo vivere anche fuori degli orari del mercato. Che orari fa il, sì, mercato? Ma il mercato fondamentalmente chiude verso le 2, sì, e da lì iniziano poi le pulizie di tutta l'area, che viene ovviamente lasciata in condizioni poco dignitose, e noi stiamo lavorando anche su quello per evitare che questo accada, e dopodiché la piazza dalle 3:30 in avanti è praticamente libera. E cosa c'entra lo street food con tutto questo? Ce lo spieghi lei? Lo street food è una delle modalità che noi vorremmo adottare intanto per dare una risposta alla crisi dei mercati, perché i mercati oggi vivono una situazione di crisi dovuta al fatto che da quando sono nati non hanno mai cambiato nulla. Noi a Torino stiamo cercando invece di modificare radicalmente l'impostazione dei mercati, a iniziare dagli orari. Tant'è che abbiamo iniziato una sperimentazione sull'apertura pomeridiana, che sta andando discretamente bene, ma si fa fatica a far capire proprio agli operatori che è necessario cambiare, e quella di poter del cibo di strada può essere una modalità per attirare nuove presenze, perché le presenze, quelli che frequentano oggi i mercati sono le persone che fondamentalmente non lavorano, perché gli orari di chi lavora sono incompatibili con l'orario del mercato. Allora, quella del cibo di strada è una delle idee che abbiamo avuto, insieme ad altre, come quella di modificare gli orari di apertura e di chiusura delle aree mercatali, perché non ha proprio alcun senso ormai che il mercato apra alle 7 del mattino, alle 6 del mattino, e chiuda all'1:30. Cioè di allungare l'orario, di modo da dare la possibilità anche a chi lavora in quelle ore, che non può andare a fare la spesa, di poterci andare, questo? Questo è sicuramente un obiettivo, ma l'obiettivo ha un altro significato, quello di migliorare anche la qualità di vita degli operatori. Voi prima stavate parlando di persone che lavorano 60-70 ore, sì, a settimana. Gli operatori di mercato, in maniera particolare chi si occupa di ortofrutta, fa una vitaccia, perché si sveglia alle 4. No, anche prima, alle 2 di notte sono al centro agroalimentare per comprare, dopodiché caricano i furgoni e vanno sul mercato. Quindi è una qualità di vita pessima, e noi vorremmo intervenire anche sulla filiera degli orari, a iniziare da chi vende l'ortofrutta d'ingrosso. E stiamo lavorando per modificare salve abitudini. Però ecco, assessore, sì, abbiamo capito, diciamo, il sistema che ha un po' in mente lei, e, però le volevo chiedere invece quale, su quale tipo di modello di cibo di strada lei punterebbe, cioè su che tipo di bancarelle, insomma, che cosa potrebbero, dovrebbero vendere, se non teme tra l'altro poi le proteste dei ristoratori che ci sono, non so se ci sono nella zona dei ristoranti. Sì, ci sono dei ristoratori, ci sono degli ottimi ristoranti nella zona, io però credo che le due cose non si sovrappongono proprio, perché chi, voglio dire, il cibo di strada è fatto per il soggetto che passa, che ha fretta, che non può sedersi, certo, a consumare un pasto al ristorante, quindi le due cose non si fanno concorrenza. Per quanto riguarda il tipo di attività, quello lo lasciamo, voglio dire, alla libera iniziativa degli imprenditori. A Torino c'è ci sono, ma non mettereste, scusi, non mettereste delle regole particolari, dei divieti, delle possibilità, cose cucinate, cose crude, cose della cucina italiana, cose di cucina internazionale, ognuno può fare quello che gli pare. No, non è così. Adesso siamo ad una fase ancora preliminare, cioè è quella di rimuovere gli ostacoli, perché gli ostacoli sono tanti, da normative regionali che impediscono di fatto di il cibo di strada, se non ai cosiddetti paninari che fanno solo Juster e qualcos'altro, sì, a normative nazionali igienico-sanitarie. Quindi nella prima fase l'obiettivo è parlare con chi ha competenze a livello regionale perché vengano modificate le normative. Modificate le normative, ovviamente faremo un regolamento, perché evidentemente le normative igienico-sanitarie, per quanto possano essere semplificate, però evidentemente vanno rispettate, perché chi mangia deve poter essere tranquillo. Questo ci sembra detto tra l'altro all'assessore, allora, rassicurante. Il cibo di strada può mettere insieme la freschezza della qualità del prodotto del mercato con il fatto di poterlo consumare lì sul posto velocemente, così come avviene tra l'altro in tutta Europa. Ecco, lei ha in mente dei modelli, qualche città europea in particolare? Ma guardi, sui mercati, quando si parla di mercati, la mente corre immediatamente a Barcellona, dove c'è una rete di mercati eccezionali, dove il cibo è somministrato all'interno dei mercati con una qualità di altissimo livello. Ma non solo a Barcellona, ma a Parigi, da tutte le parti questo è possibile. Da noi in Italia ci sono alcune tradizioni, in alcune città, soprattutto al sud, al nord è meno diffuso, e noi vorremmo invece provare ad attivare anche questo tipo di attività, perché speriamo possa portare un contributo alla diminuzione della disoccupazione nella nostra città. Va bene, grazie mille assessore, allora in bocca al lupo per questa proposta, iniziativa, che è un si può fare anche questo, street food a Torino. È un vediamo se si può fare, diciamo. Esatto. Sentirsi come Papa senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Eccoci qua, a me mi piace però l'idea dello street food al mercato di Porta Palazzo, non sono mai stato lì in questo famoso mercato a Torino, mercato, però l'idea gigante, mi sembra interessante, perché tu vai a fare la spesa, mangi un panino, torni a casa, così hai fatto doppio servizio, hai fatto la spesa, ti hai anche fatto un pranzo veloce a basso costo, mi sembra una cosa sostenibile. Sì, in realtà non è solamente durante la spesa, perché l'idea è di mantenere i baracchini dello street food anche di sera, dopo il tramonto. Aperti anche il mercato, aperto un po' il pomeriggio, perché no, e poter andare anche la sera a due passi e mangiarsi un panino. La cosa importante è quello che ci si chiede sempre, che in realtà ripopolare una zona invitando le persone ad andare anche a uscire la sera, andarci a mangiare, in realtà risolve anche molti problemi di sicurezza che ha il quartiere, certo, di Porta Palazzo. Quindi allora abbiamo un paio di ascoltatori da sentire. Mara da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Prego. Sì, scusa, volevo intervenire. Sì. Sì, chiamavo per il personaggio della settimana. Sì. E penso sia Bill Clinton. Perché? Perché so che diventerà nonno, e anche se non erro tempo addietro già, si era schierato con Barack Obama in favore dei matrimoni gay, cambiando un po' le sue idee, insomma, perché prima non era tanto dell'idea. Ma sta per diventare nonno o è già nonno? No, non è ancora nonno. Ah, vedi. Quindi invece. No, il nostro è già nonno. Poteva quasi essere poteva che aveva anche trovato la notizia della settimana a quale era legato. Cioè il fatto che. Sì. Cioè, non lo so quando diventerà nonno, ma se diventa nonno in settimana, diciamo. Comunque ci spiace, ma non è questo il personaggio della settimana. Grazie, Mara. Grazie anche per la compagnia che ci fate, sempre con argomenti intelligenti. Grazie mille. Grazie, buona domenica. Mara, davvero. Emilio da Bergamo. Emilio? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Chiamo per il personaggio della settimana. Ottimo. Sì. Ecco, secondo me è Luca Giurato. Chi? Cioè, Luca Giurato. Giurato. Perché? No, perché l'ho sentito in una trasmissione, probabilmente alla Zanzara, sì, e difendeva a spada tratta proprio appunto il movimento e oltretutto è anche nonno. E oltretutto certo. È anche nonno. E la notizia della settimana però al quale è legato? Questo non lo so. Mancava la notizia, mancava la gancio di cronaca. 2 su 3. Emilio, era sulla strada giusta, io non sapevo né che Luca Giurato fosse nonno, vabbè, ma questo non è detto che uno debba sapere, né che si fosse schierato contro l'omofobia, matrimoni gay, ma soprattutto non c'è la notizia questa settimana e non è lui il personaggio. No, quindi. Che poi possiamo dire che in realtà schierarsi forse contro l'omofobia è una cosa più specifica di essere a favore dei matrimoni gay. Dico come indizio, non per redarguire. Sostenere i matrimoni gay può essere un modo per schierarsi a favore dell'omofobia, ce ne sono anche altri. Insomma, o perlomeno è un modo per dichiararsi non omofobo personalmente, dice io sono a favore dei matrimoni fra persone dello stesso sesso. Però invece schierarsi contro l'omofobia in parte è un'altra cosa. A proposito di matrimoni contro la cementificazione, sì, avete capito bene, adesso capiremo ancora meglio. Gocciola l'anima sciolta a metà, per non vedere chi si venderà, serenamente a un futuro presente, che per non amare si accontenterà, qui nel momento io sono qua, sotto la pioggia con la siccità. Come il cemento fermo nel vento e all'improvviso un lampo mi accenderà. E buongiorno a Domenico Finiguerra, ex sindaco di Cassinetta di Lugagnano, promotore dell'iniziativa Matrimoni per la Terra. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Una iniziativa che i giornali hanno titolato così, nozze contro la cementificazione. Insomma, il vostro, questo è un comune, il comune del quale lei è ex sindaco, un comune che ha anche delle bellezze da mostrare, la gente viene già a visitare e qualche volta anche a celebrare le nozze. Com'è che voi, lei in particolare, ha voluto mettere in relazione il fatto di potersi sposare in questo comune col fatto di dire stop alla cementificazione? Ma tutto nasce in maniera abbastanza fortuita. Noi abbiamo deciso diversi anni fa di fermare il consumo di territorio a Cassinetta di Lugagnano, perché è un dato abbastanza emblematico che riguarda il nostro paese, è quello legato al fatto che noi consumiamo 8 metri quadri di terra al secondo, e quindi noi nel nostro comune abbiamo deciso di non consumare più suolo agricolo e di puntare tutto sulla bellezza. E questo ci ha messo di fronte ad un problema grande, molto grande, ovvero quello di disintossicare i bilanci dei comuni dagli oneri di urbanizzazione. Sembrano delle parole difficili, però in realtà noi ormai abbiamo una situazione in Italia che da circa una ventina d'anni vede i comuni privarsi della cosa più importante che hanno, ovvero la propria terra, per pareggiare i bilanci e incassare quindi questa droga pesante, appunto chiamata oneri di urbanizzazione. Spieghiamo bene questa cosa, perché questa cosa qua è fondamentale. Pochi la sanno, poche volte è stata spiegata anche a livello giornalistico, però è una cosa drammatica, vera e importante. Spieghiamo meglio questa questione degli oneri di urbanizzazione, cioè i comuni incassano vendendo la terra in pratica. Dunque i comuni qua quando devono chiudere il proprio bilancio di previsione e quindi dare servizi ai cittadini, ormai da una buona ventina d'anni hanno grandi difficoltà finanziarie, no? Dovute al patto di stabilità, dovute alla ristrettezza dei trasferimenti, e quindi hanno una esigenza però di pareggiare il proprio bilancio. E cosa fanno? Grazie ad una possibilità che è sempre stata concessa dai governi di tutti i colori politici, hanno potuto applicare quello che si incassa quando si fanno delle lottizzazioni, quindi gli oneri di urbanizzazione, quello che i privati versano nelle casse del comune, per fare spese correnti, e questo ha messo in dipendenza i bilanci dei comuni dalla svendita del proprio territorio. E ovviamente poi la terra non è infinita, gli oneri di urbanizzazione entrano una volta sola, e quindi tutti gli anni i comuni si trovano poi ad avere una vera e propria crisi di attinenza. E tra l'altro mi faccia aggiungere anche una cosa, poco importa anche se di 100 nuovi appartamenti costruiti poi 50 restano invenduti, perché ci sono delle statistiche importanti su questo. C'è una percentuale forse addirittura più alta della metà delle nuove costruzioni che risultano vuote, inutilizzate o invendute. Questo evidentemente poi poco importa, perché il comune ha fatto il suo incasso, il costruttore ha fatto il suo incasso e sì, però è una politica davvero di brevissimo respiro, perché poi noi ci troveremo fra qualche anno a dover gestire degli enormi stock di immobili non utilizzati che saranno soggetti al degrado, perché poi voi sapete benissimo, nel momento in cui passano 3-4 inverni senza che un capannone o un condominio di 50 appartamenti venga riscaldato, che è necessario poi intervenire con una manutenzione. I nostri figli ci chiederanno conto fra qualche anno, perché una volta incassati gli oneri di urbanizzazione li lasceremo un territorio cementificato e dovranno trovare qualcosa per darsi da mangiare. A me personalmente viene quasi da piangere quando penso a questa cosa qua, perché mi sembra una delle stupidaggini più grandi che abbiamo compiuto in questi anni. Senta, arriviamo quindi però all'idea dei matrimoni. E quindi noi abbiamo incominciato a guardarci attorno, perché un piccolo comune come Cassinetta di Lugagnano aveva bisogno comunque di dare servizi ai propri cittadini, però non volevamo privarci appunto di questa cosa fondamentale che è la terra. Abbiamo avuto questa occasione, guardandoci attorno, da parte dei cittadini non residenti a Cassinetta di Lugagnano che volevano venirsi a sposare a Cassinetta appunto. Allora un giorno in giunta abbiamo deciso di fare un nuovo regolamento per i matrimoni, abbiamo deciso di aprire ai matrimoni tutte le ore del giorno, dalle 9 a mezzanotte, sabato e domenica compresa, per poter appunto fare cassa e allo stesso tempo promuovere il territorio. E abbiamo chiamato i matrimoni per la terra, perché chi si sposava e si sposa tuttora a Cassinetta di Lugagnano sa che risparmia un pezzo di terra consumata. È stata un'iniziativa che ci ha poi tra l'altro anche messo in contatto con anche altre realtà. Quella del consumo di territorio è una realtà che affligge moltissimi altri comuni e tutte le regioni d'Italia, quindi è partita. Speriamo che qualcuno segua il vostro esempio, assolutamente. Esatto, insomma, volevo chiedere se c'è già qualcuno che vuole fare lo stesso progetto come il vostro. Ma io credo che ci siano tantissimi comuni in Italia, io ne conosco moltissimi di amministratori locali che si inventano cose come questa per poter risparmiare il territorio. Sono molte le cittadine, grandi e piccole, che approfittano della propria bellezza per promuovere un altro modello di sviluppo e avere nuove entrate senza svendere ciò di cui hanno più bisogno e di cui avranno più bisogno le generazioni future. Non è tutto brutto quello che si muove in Italia, ci sono tantissime persone che nelle istituzioni fanno cose eccezionali, dall'efficienza energetica alla tutela del territorio alla migliore gestione del settore dei rifiuti fino ai matrimoni contro la cementificazione. Si debba anche mettere in campo una politica di matrimoni contro le trivellazioni, perché abbiamo un grosso problema in Italia che oggi va anche sotto altri aspetti. Tanto potremmo risolvere, Finiguerra, due problemi in uno, gli incassi dei comuni, magari anche diciamo mettere un freno al calo della natalità, un po' più di matrimoni, un po' più di figli. Mi raccomando, cari comuni italiani all'ascolto, la bellezza, mettete all'incasso del vostro comune la bellezza anziché la cementificazione. Questa è la proposta che arriva da Cassinetta di Lugagnano. Grazie ancora, in bocca al lupo, e spero che di idee così, Domenico Finiguerra, ve ne vengano tante tante altre. A presto. Grazie. Grazie mille. Allora, che facciamo? Facciamo la pausa per il traffico, poi diamo un altro indizio per il personaggio della settimana. Diamolo adesso. Diamolo subito, perché sennò qua sì, manca un quarto d'ora. E diciamo che lui, oltre a essere un nonno, oltre a essersi schierato contro l'omofobia, era in Brasile anche lui, insieme a tutti quelli che ci sono ancora adesso. Era. Si può fare cronache da un paese migliore. It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because 2 times 3 is 6. And 3 times 6 is 18. And the 18th letter in the alphabet is R. Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. E ritroviamo il maestro di Capannori, premio Nobel alternativo per l'ambiente 2013, Rossano Ercolini, presidente tra l'altro di Zero Waste Europe. Buongiorno. Quale miglior modo per chiudere l'anno, direi. Eh sì. Infatti, Rossano, devo dire la verità, ci siamo sentiti molto in queste ultime puntate per il vostro giro in Italia a caccia di buone pratiche sui rifiuti zero. Io però oggi non lo so, non ho domande per Rossano Ercolini, perché è il nostro testimonial, è un piacere ascoltarlo. È iniziatore in Italia di questo movimento. Sembravano un gruppo di rivoluzionari anarchici che non volevano fare i conti con gli inceneritori. Invece adesso abbiamo scoperto che la strada segnata anni fa era quella giusta. Rossano, io ti farei parlare anche così a caso di qualunque argomento. Pensiero libero, così, tema scelta. No, sì, sì. Diciamo che il Giro d'Italia, quello ufficiale, quello che ci ha impegnato per un mese, sì, con budget zero, ma con tanta energia e con tante proposte, è finito ufficialmente. Però continua il mio giro, perché io ogni fine settimana continuo ad avere degli appuntamenti. Il 2 sarò a Viterbo, il 2 luglio, nell'ambito del Festival Caffeina, a presentare il mio libro Non bruciamo il futuro. Poi il 5 sarò a Gorizia, nell'ambito, sì, della festa nazionale dei vegetariani, a presentare di nuovo il mio libro. Se posso essere un pochino presuntuoso per la decisione di condividere con voi, che vi sento molto vicini. È l'ultima puntata, vale tutto, puoi fare quello che vuoi. Ho appreso con grande soddisfazione da dilettante di internet che il mio libro è il 5° libro più venduto nella top 10 su internet, su IBS, su internet bookshop. Molto bene, molto bene. E quindi vuol dire che c'è un pubblico che io ritengo ancora da dilettante giovanile, giovane che è interessato, e questo mi fa molto piacere, perché di solito chi va a spippolare è mediamente, ormai un po' tutti, però tutti giovani. Tra l'altro un ragazzo di Avellino, di 17 anni, mi ha invitato alla fine di luglio a presentare il libro proprio nella sua città. Mi fa un piacere immenso che i giovani aprano il cuore, aprano la mente alla strategia rifiuti zero. E aprano anche i libri. Sì. Tra l'altro Rossano fa il maestro, quindi ascoltino le trasmissioni aperte e illuminate come la nostra. Come senti, la nostra, Rossano, io te l'ho già chiesto forse, ho la sensazione che di tutto questo cambiaverso del governo Renzi che c'è in pista, riforme importanti, insomma sta dialogando con tutte le forze politiche, bisogna credere che qualcosa si stia mettendo in moto sul piano almeno delle riforme istituzionali, politiche ed economiche, però dell'ambiente non si parla. Il vostro concetto è che l'ambiente, i rifiuti soprattutto, sono una miniera preziosa e una fonte anche di lavoro, di economia. Come la vedi da questo punto di vista? Hai riassunto benissimo il punto di vista che noi abbiamo nei confronti del Renzi. Renzi parla di Job Act, di un nuovo piano per il lavoro. Che Renzi ci ascoltasse, o anche se non volesse ascoltarci, ascoltasse quelle associazioni, quei movimenti che vedono nei nuovi indirizzi europei e negli studi che ormai sono numerosissimi la possibilità di impresa di migliaia e migliaia di posti di lavoro da una gestione diffusa dei materiali di scarto. Cioè sarebbe un contributo effettivo per collegare quello che sta sempre più avvicinandosi, ecologia ed economia, quella che forse è la novità più importante che ci consegna la crisi. Noi possiamo, dobbiamo uscire dalla crisi attraverso quale passaggio? Attraverso il passaggio della connessione ecologia-economia. Nel Castanetto c'è una miniera urbana, questo non lo dico io, lo dice l'Europa, lo dicono i paesi che anche negli Stati Uniti puntano sul riciclo per dare lavoro a soprattutto i giovani. Ci sono nuove professionalità, ma anche falegnami, anche elettricisti, elettrotecnici, riparatori dei computer. Sono opportunità che io mi stupisco che non vengano prese in considerazione. Mi auguro che questa pressione dell'opinione pubblica si faccia sentire e produca a un risultato, produca qualcosa. E noi, tra l'altro, possiamo dirlo, quest'estate che faremo la puntata quotidiana dalle 18 alle 20:30, lo sanno il Colino, lo risentiremo, perché questa miniera di risorse che c'è dentro i cassonetti andremo a scoprirla un pezzettino per volta, ogni volta. Grazie intanto, buona domenica. Grazie mille, e buon buona inizio domenica d'estate, Rossano Ercolini. Ciao. Poi di nuovo, un abbraccio. Ciao. Ciao. Allora, velocemente, che siamo quasi in chiusura, dobbiamo anche fare dei ringraziamenti, dei saluti un po' pesanti, perché è l'ultima puntata, cioè pesanti, un po' importanti, non pesanti, importanti, di peso specifico. Nadia da Pordenone, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sul personaggio della settimana, vediamo un po'. Sì, io avevo pensato a Brandelli. In zona Cesarini ha indovinato, signora. È inutile riepilogare gli indizi, nonno. Ci credo. Ha vinto. Si è schierato contro l'omofobia in una prefazione... era in Brasile, l'indizio era più su era, diciamo. Era. Ha scritto una prefazione del libro di Cecchi Paone, quello sì. Che sulla quindi contro l'omofobia. Poi insomma, noi abbiamo scelto come personaggio per non dimenticarci di questo fallimento italiano ai mondiali, per rendere omaggio quantomeno a un allenatore che è stato un buon allenatore, credo, ci ha fatto fare un secondo posto agli europei e poi si è dimesso, viva Dio, cioè non succede mai in Italia che uno si assume responsabilità e se ne va subito, e lui lo ha fatto. Adesso si parla e di Mancini e Allegri, siamo tutti felici. Grazie a Nadia. Il nostro si può fare meglio, direi, giusto? Si può fare meglio, ok. Per il futuro. Carlo, inizia a fare i saluti, vai. Allora, io quello che voglio dire è questo: io voglio assolutamente ringraziare Radio 24 e voglio ringraziare tutti gli ascoltatori per questa opportunità che ho avuto, diciamo, per questo anno fatto di weekend di sobrietà dovuti alla sveglia mattutina tutti i sabati e tutte le domeniche. Anche mia mamma vi ringrazia tutti moltissimo e ne sono molto contento, spero che sia andato tutto bene, spero di continuare perché il mio sogno era fare radio. E poi moltissimo io devo ringraziare Alessio Maurizi, che sei qua davanti a me, ma ti devo proprio ringraziare per avermi proposto questa opportunità, per avermi provato l'estate scorsa, per avermi confermato, per avermi chiesto di rimanere, quindi ti ringrazio veramente tantissimo. Allora io dovrei ringraziare te. No, Andrea bisogno. Piana che esatto, si è messo poi in mezzo a tutto. Ringraziamo giusto, anche Alma Rondelli, che anche lei è un po' autrice di questa situazione in cui ci siamo trovati. Però a parte gli scherzi, io voglio ringraziare e ricordare tutti quelli che hanno collaborato al programma. È impossibile, è difficile. Comunque Andrea Piana, Giorgio De Luca, Niccolò Rossoni, Camilla Tomadini, che ha dato un suo apporto importante in queste settimane. Chi altri? Lorenzo Nespoli qualche volta la domenica. Basta, oggi c'era Peter Bescapè in regia, ma insomma il comparto tecnico dei registi quelli io li ringrazio moltissimo, che mi hanno sempre redarguito. La vera forza di questa radio. Beh, ci ritroviamo a partire dal 28 luglio, credo alle 18:30, vedremo in che formato. Io spero di averti qua, Carlo, vediamo, eh? Sarà bellissimo. Saluti a tutti, buona domenica. E buon inizio estate. E si può fare. Ciao.